cambiare totalmente, iniziare una nuova vita, un nuovo presente, dove niente è più come prima, tutto è cambiato, bisogna ripartire da zero, quel che è stato è stato.